Si ritorna in onda sempre su Sono Solo Nuvolette, questa è Radio Archimede, la web radio dentro la biblioteca civica multimediale di Settimo Torinese, che è sempre un bel polo di cultura, è sempre bello entrarci, vedere quanti libri e quanto la cultura ha ancora un bel peso, una bella importanza nella vita di molte persone, nonostante qualcuno abbia cercato di dirci che con la cultura non si mangia. Adesso con la cultura si mangia anche, visto che hanno associato il mondo della cultura e quello dell'enogastronomia, e non è male, perché no? Ho il piacere di avere qui in studio oggi Simone Di Meo. Ciao a tutti. Posso dire un giovane professionista? No, sì, dai, va bene così. Che intanto tante volte il giovane autore, quasi sempre uno parte dal presupposto di un esordiente, eccetera, quando in realtà è anche un po' di anni che tu collabori stabilmente con Walt Disney, adesso con Titan Comics, con realtà professionali, e quindi se qualcuno si permette di darti dell'esordiente, penso che tu possa prenderlo a bastonate. Ma non bastonate, però possiamo rimettere in gioco la sua frase, diciamo. Esatto. Quindi, giovane professionista, in preparazione, in rampa di lancio per New York Comic Con, giusto? Sì, la prossima settimana si parte, New York Comic Con, che è dall'8 all'11 ottobre. Ok, New York Comic Con tra l'altro è la seconda più importante fiera di fumetti degli Stati Uniti, la più importante è la San Diego Comic Con. Che tra l'altro, però, questo mi ricordo Steve Wacken all'epoca della Marvel mi aveva consigliato di andare a New York Comic Con, perché conserva un po' di più la dimensione fumetto. Sì, perché a San Diego è più star del cinema, presentazioni dei nuovi film, soprattutto in questo periodo con i cinecomics così tanti. Esatto, è un discorso che è cresciuto nel tempo, però San Diego è diventata il punto di riferimento per tutto ciò che non è fumetto, sì, però che deriva dal fumetto anche solo in senso tangenziale, perché alla fine un discorso che cerchiamo di fare su queste frequenze, sulla cultura pop, è tutto quanto è diventato un calderone. Ci butti dentro il Trono di Spade, che in realtà viene da romanzi, mm-hmm, fantasy, però hanno questo pubblico forte che è quello del fantasy. Ci butti dentro persino Breaking Bad. L'anno scorso, due anni fa, al New York Comic Con, no, a San Diego, c'era Bryan Cranston, l'attore di Breaking Bad. C'è stato questo video molto buffo in cui lui aveva girato in mascherato, era lui stesso che girava stand mascherato da se stesso. Sì, l'avevo visto. Esatto. Quindi anche alla New York Comic Con probabilmente troverai un po' di personaggi che hanno annunciato qualcuno. David Tennant, ok. Esatto, infatti ci stiamo già preparando per incontrarlo e fargli autografare tutto quello che troviamo a disposizione. Porti tanti soldi, perché lì tutto quello che ti fai autografare, uno dei pacchetti da New York Comic Con è: dai un tuo oggetto, paghi e te lo autografano. Grazie, ma la cosa divertente almeno è guardarlo in faccia. No, ma speriamo di passare attraverso la BBC avendo lavorato per il Dottor Who. Vediamo di riuscire a... E qui ci starebbe un bel selfie con David Tennant. Infatti se lo facciamo me lo appendo in camera. Esatto. Molto volentieri. Esatto, qui abbiamo anticipato uno degli argomenti, perché non abbiamo ancora detto che Titan Comics è l'editore inglese dei fumetti di Doctor Who, sì. Questa serie britannica di fantascienza rinata nuova vita nel 2005 e che adesso è un fenomeno di costume. Assolutamente, sì. E tu inchiostri i disegni di Elena Casagrande, esatto, per la serie del Decimo Dottore, che è quello, okay, poi quello di Tennant, quindi esatto. Sarebbe anche coerente, esatto, quindi sarebbe perfetto, quindi fatti valere e pretendi la tua parte di gloria. Vediamo come andrà. Ok, digli allons-y. Anzi, molto bene, benissimo, devi dirglielo, come esatto. Lui dice, Tennant gioca molto, giocava, visto che adesso siamo già due dottori avanti, esatto, rispetto a lui, ma giocava molto anche su questo patchwork di lingue. Quindi... Ma infatti lui sarà lì principalmente per la nuova serie della Marvel, che è quella in cui farà il cattivo. Lui viene lì per la Marvel, però se passa in BBC... Diciamo che non ci facciamo mancare. Beh, mi pare che su Twitter ci sia Dan Slott, che è uno sceneggiatore, sì, Marvel, che ha la foto. Per qualche motivo era passato Tennant, quindi ci sono, esatto, Tennant e Dan Slott nella foto che fanno il gesto di Spider-Man, esatto, del lanciaragnatele. Esatto. È un patchwork di cultura pop. Sì, sì, sì. È tutto diventato un calderone. E tu sarai nella Artist Alley, giusto? Sì, diciamo che sarò per un certo periodo durante questi 4 giorni insieme a Elena Casagrande al tavolo, dove si disegnerà, si parlerà con un po' di passanti, ecco. E poi per il restante tempo girerò la fiera, perché voglio vedere dove vado e quindi... Esatto. l'Artist Alley, per chi non lo sapesse, tra l'altro sta nascendo anche a Lucca, non so se con questo nome, di per sé è un concetto che c'è alle fiere americane, quindi sono tavoli con i disegnatori, si sta un po', esatto, sta un po' crescendo la notorietà. Questo in Italia è sempre stato molto legato alle testate, quantomeno per la Bonelli, molto la notorietà del disegnatore legato alla testata, invece sta crescendo la notorietà del disegnatore di per sé, esatto, legato comunque a un marchio di un certo tipo. Ma infatti in Italia da un paio d'anni qualche fiera come per esempio Lucca Comics e Mantova riescono a creare questa piccola Artist Alley anche loro, e quindi cerchiamo di un po' simulare quello che è il comportamento con gli autori americani. Vediamo piano piano. Ok, nell'approccio alle fiere, sì, okay. Esatto. E chissà come sarà questo l'approccio con i lettori americani. Tu di solito come ti trovi alle bancarelle, alle fiere, con i lettori? Ti chiedono tantissimo, ti chiedono di disegnare l'impossibile oppure... Dipende, cioè quando dipende un po' dal pubblico che arriva, okay, allo stand. Cioè quello super appassionato che sa benissimo quello che fai e quindi ti chiede specifiche su quello che fai, e lì è forse la parte più interessante. Okay. E poi c'è il passante che non ha mai visto un fumetto, che ti dice: ah, ma tu disegni fumetti, cosa fai, come si fanno? Esatto. Bello, ma ti pagano. Esatto, esatto. I disegnetti, i pupazzetti. Esatto. Quelle cose lì. E questa è forse una delle chiavi di volta di un discorso che si costruisce qui a Sono Solo Nuvolette, puntata dopo puntata. Manca un po' il livello di mezzo, è come se ci fosse gli iper nerd che sanno, che ti chiedono quanti peli hai disegnato, esatto, sul naso di Paperino. No, non hai peli sul naso e non ha neanche il naso, esatto. E dall'altra parte un pubblico generico che parte dal presupposto: ma sì, boh, disegnetti, pupazzetti, quella cosa, tutto lì. Uguale, tutto uguale, esatto. Un po' di lavoro interessante lo sta facendo il movimento della graphic novel. Il comparto ha dovuto inventarsi un altro nome per il fumetto per arrivare ad altri lettori. È così, a volte è questione di etichetta. Tu preferisci ancora l'etichetta fumetto o l'etichetta graphic novel? Ma dipende un po' forse dal periodo di vita in cui mi trovo. Ci sono quei periodi in cui ho voglia di leggere, di avere una sicurezza sera dopo sera, quindi mi piace il seriale, no? Perché, okay, cosa succede? Che magari sei in quel periodo che tutto è un po' strano e quindi hai bisogno di sicurezza. Tu torni, certo, a casa la sera, sai che hai il tuo albo sul comodino e ti piace questa cosa. Esatto. E invece poi c'è quel periodo dell'anno dove ti va di leggere qualcosa di inizio e finisco nello stesso momento, e, okay, quello è il periodo in cui leggo le graphic, okay, novels. Ok, e riesci ancora a leggere da lettore, godertelo senza guardare tanto il disegno e lo storytelling? Purtroppo no. Okay. Questa è una cosa che non riesco più a fare, cioè prima di aprire, cioè prima di comprare fisicamente un fumetto lo apro e guardi chi l'ha disegnato, esatto, l'ha se mi attira, okay, e tutto lo compro, se no purtroppo. Poi, vabbè, ci sono quei casi in cui sai che quel prodotto è buono e anche se i disegni non ti colpiscono subito lo compri per provare, però è più una... di solito non faccio, cioè apro il fumetto. Vabbè, ma lo sfogliare il fumetto di per sé non stai, sì, dicendo... Sì, no, è un da pubblico. Esatto. Da pubblico, sì, sì. Sì, diciamo che... però un pochino più da disegnatore, a parte guardare solo esclusivamente i disegni, la prima cosa che ti colpisce sono... Vabbè, io principalmente da inchiostratore anche, mm-hmm, sono le inchiostrazioni e i colori. Cioè, se vedo che, anche se il disegno è buono, ma l'inchiostratore e il colorista non hanno fatto un ottimo lavoro, un po' così. Ok, quindi sei in grado, hai l'occhio per distinguere quando una delle fasi della produzione non è al top. Non è al top. Sì. Ok, sul spacchettare la fase di produzione di un fumetto torniamo poi dopo. Okay. Perché è un procedimento un po' come gli effetti speciali digitali, che si dice che sono perfetti quando non si vedono. Certo. E anche in questo caso il lavoro di inchiostrazione, più è ben fatto, più... non ti accorgi che è stato fatto. Esatto. Certo. È un po' come il lavoro dei bassisti nelle band, forse. Togli il basso, esatto, lo senti ma non ti rendi conto di sentirlo. Esatto, esatto. E, parlando di bassisti, Alessandro Gennaro in regia, adesso gli chiedo di lanciare la prima canzone. Tu sei un giovine e avresti messo cose elettroniche. Io sono un vecchio tamarro e dopo aver sentito Giuse Fiorere nella playlist ho avuto un attimo di crampi al cervelletto, e a quel punto butteremo giù i Black Sabbath, perché... un pezzo che si chiama War Pigs ed era veramente pesante. Ci sono maiali della guerra, penso, ovunque nel mondo. Sì, sì. Un riffaccio, una roba cattiva. Black Sabbath. E questi erano i Black Sabbath, sempre Sono Solo Nuvolette, sempre con Simone Di Meo. Abbiamo sfumato perché comunque un po' cazzeggiavano questi quattro ragazzi inglesi. Uno era un macellaio, uno era Ozzy, Geezer Butler che tirava come un dannato, però... ragazzi, ok, ma noi abbiamo delle cose importanti di cui parlare, che sono i fumetti e smontare il meccanismo per cui il fumetto seriale, come potremmo dire, seriale da edicola, viene realizzato. Non tutti sanno che c'è il disegnatore, ma c'è l'inchiostratore. Assolutamente, sì. Dovessi spiegare qual è il tuo lavoro a qualcuno, anzi, temo che purtroppo tu lo faccia spesso, ma comunque, sì. Spiegando in parole povere, qual è il tuo lavoro? Allora, partiamo dal presupposto che nel fumetto seriale non tutti sanno che quello che è il risultato finale del fumetto, quale può essere Topolino o qualsiasi altro fumetto, molte volte mi è capitato, ma tu che lavoro fai? Io lavoro per Topolino. Ah, ma quindi tu disegni tutto Topolino? No, cioè, non è che ogni volta che esce il settimanale Topolino è fatto da una sola persona. Poi, in verità, sono anche domande abbastanza strane perché c'è scritto il nome dell'autore sotto, esatto, la storia. Molte persone non si fermano neanche a leggerlo. Beh, penso che le persone che ti fanno questa domanda non, in realtà Topolino sanno cos'è, ma non, esatto, l'ultima sanno, volta che l'hanno comprato, esatto, è 15 anni fa. Sanno cos'è come tutti, perché esatto, penso che quasi nessuno, esatto, non sappia cosa sia. Però sì, non sono dei lettori di quelli che hanno l'abbonamento, per esempio, esatto. Mentre loro sanno esattamente, cioè ho incontrato anche parecchie persone che sono abbonati, che sanno esattamente qual è il loro disegnatore preferito e tutto quanto, lo scrittore. E non ne trovi tanti, perché in verità però ho trovato anche alcuni bambini addirittura che sapevano, ah, a me piace lui, a me piace, ottimo. Beh, lì qualche genitore che bumbola, esatto, magari. Esatto, come mia madre aveva l'abbonamento a Topolino e l'ho sempre letto, ho imparato a leggere con Topolino, penso altri genitori abbiano fatto la stessa cosa e va bene così. Io sono molto felice. Anzi esatto. È la grammatica per tutti noi. Comunque, niente, il mio lavoro è una delle tre fasi di lavorazione di un fumetto, perché in verità sono più fasi, però partiamo dallo sviluppo grafico, no? Quello che non è la scrittura, la sceneggiatura. Esatto, due settimane fa abbiamo avuto Bruno Sarda, che è uno storico sceneggiatore Disney, e ci parlava della sceneggiatura, della scrittura, di una, okay, storia, delle idee. E oggi allora andiamo a integrare con la parte, esatto, grafica. Esatto. Dopo che un disegnatore, cosa succede? Un disegnatore riceve questa sceneggiatura, che è questa parte del fumetto scritta e immaginata dallo sceneggiatore, tocca al disegnatore metterla su carta, quindi immaginarsi quello che lo scrittore ha creato mentalmente e farlo diventare poi reale, cioè che Topolino non sia solo immaginario, ma che uno possa vederlo nel fumetto. E quindi parte questa fase, che è la fase del disegnatore, del matitista, diciamo, più detto matitista in America, perché in America i ruoli sono ben distinti. Ok, sono... penciler. Esatto. E quindi si parte con questa fase di disegno per velocizzare il tutto. Cosa è stato fatto da sempre, penso, cioè non da sempre, ma da molti anni. Si dividono le fasi di lavoro, cioè chi fa le matite, chi fa le chine e chi fa i colori. Queste sono le tre figure professionali che creano la parte grafica del fumetto, quindi che vanno a comporre poi il tutto fino ad arrivare al letterista, che è quello che mette i balloon con i testi, e alla stampa. Quindi il matitista si preoccupa di prendere la sceneggiatura e portarla a matita, in digitale, quello che vuole, in qualsiasi supporto voglia, su pagina. La seconda fase è la mia, che è quella dell'inchiostratore. Mi vengono passate le tavole, che siano ben definite, non ben definite. Il mio ruolo è mettere a posto tutto quello che non è stato fatto dal matitista e inchiostrare a china. Cosiddetto l'inchiostro a china, che può essere anche oggi è digitale, quindi lavorare con Photoshop, con altri programmi di grafica. Quindi io vado a definire il disegno, divido gli spessori, metto i neri, quindi ombre, luci e tutto quant'altro. Dopodiché, dopo il mio ruolo, io passo le tavole in redazione e vengono passate alla fase di colorazione, quindi quello che poi è il risultato finale grafico, cioè l'uso dei colori sulle, cioè, chine. La suddivisione dei lavori è qualcosa di per velocizzare, ma penso anche, in molti casi, questo per esempio è anche un esempio di Diabolic, per livellare, rendere più uniforme il lavoro. Io so che per esempio in Diabolic quasi sempre l'inchiostratore è diverso dal disegnatore, perché quasi sempre viene affiancato un disegnatore più giovane a un inchiostratore più esperto, o viceversa. Certo, certo. Che in quel modo si va, e questo è il lavoro di Astorina, tanto di cappello, Astorina è la casa editrice di Diabolic, a dare degli albi che sono quasi stilisticamente distinguibili l'uno dall'altro, certo, lo stile del disegnatore. Ma soprattutto mantengono poi uno standard di qualità molto più, esatto, alto, perché sì, allora io mi rendo conto che sia molto questione di tempo, perché se io so che fra 6 settimane Topolino deve uscire, perché si va avanti di qualche numero, il disegnatore non è il massimo della velocità, se io riesco a fare le chine nel frattempo che lui continua le matite, noi riusciamo a concludere la storia molto più in fretta che se lui facesse matite e poi successivamente, okay, se stesso si inchiostrasse le tavole, certo. Quindi è una sorta di catena di montaggio del fumetto seriale, che aiuta gli editori a far uscire i volumi in tempo, gli autori a non cacciarsi nei guai. Okay. Diciamo. Chiaramente immagino tu sei stato a livello della scuola internazionale di comics. Sì, assolutamente. Inizialmente penso che chiunque si iscriva a una scuola internazionale di comics pensa prima di tutto al disegno. Sì, diciamo che la mia è stata una scelta un po' particolare, perché io mi sono iscritto alla scuola internazionale di comics naturalmente con l'idea di disegnare, e che è la mia idea tuttora, cioè esatto. Io sono, oltre che inchiostratore, disegnatore, e quindi mi sono iscritto con questa idea, e ho frequentato il primo anno da studente con la solita idea di diventare disegnatore. Quando frequenti una scuola professionale come la scuola di comics, ti rendi conto che tu impari un sacco di cose che prima non conoscevi, come per esempio questa, cioè la distinzione dei lavori in questa specie di catena di montaggio. In verità magari lo sapevi, però non ci mettevi troppa attenzione. Uno non ci pensa, esatto. Non lo immagina neanche, non si fa certe domande, perché esatto. Alla fine ciò che vedi è il prodotto finito. Esatto, io vado a leggere il fumetto, poi vabbè, se mi interessa la parte tecnica mi informo, se no ho finito il fumetto, chiudo e esatto. Ciao. E quindi ho scoperto che puramente avevo una mano abbastanza precisa, ed è stata una scelta un po' così. Ho detto vabbè, magari proviamo a fare l'inchiostratore prima di fare il disegnatore, per poter entrare nel mercato prima, cioè esatto. Per non dover fare magari 4-5 anni esercizi su esercizi da disegnatore e poi provare a farlo. Ho detto entriamo nel settore, facciamo questa parte settoriale che è l'inchiostrazione, e poi nel frattempo, mentre già faccio parte dell'ambiente, inizio a disegnare. Certo. Poi è una scelta, secondo me, forse una delle migliori, perché l'inchiostratore non è che ripassa a china. Allora, c'era la battuta, ne parlavamo fuori onda e avevo detto che non l'avrei tirata fuori questa battuta, però me la chiedi. Vado, c'è cercare. Un film di Kevin Smith, il terzo film di Kevin Smith, In cerca di Amy, in cui Ben Affleck e Jason Lee rappresentano un disegnatore e un inchiostratore, o comunque un gruppo creativo che realizzano questo fumetto, che è Bloodman and Chronic, cioè Jay e Silent Bob in versione supereroi. Quindi già è una cosa di per sé, sarebbe divertente leggerlo se esistesse davvero, esatto. Quel fumetto, e c'è la battuta all'inchiostratore: ma tu sei quello che ripassa i disegni? Ecco, quella è la battuta. Quindi peggiore. Quante volte ti dicono: ma tu sei quello che ripassa i disegni? Mi è successo parecchie volte e infastidisce davvero, davvero molto. Perché, cioè, a parte che mi verrebbe molto da rispondergli: perché non ci provi tu a ripassare allora, se sembra una cosa così semplice? E poi perché in verità molte cose, cioè, perché poi a seconda del disegnatore, cioè, io non è che lavoro solo con un unico disegnatore, mi lavoro in tanti ambiti diversi, quale il fumetto realistico, il fumetto umoristico, dall'americano all'inglese all'italiano, e con autori diversi, quindi impari a conoscerli, devi anche essere un po' lo psicologo dei matitisti, perché poi sai bene che se loro ritardano tu automaticamente dovrai recuperare il loro ritardo, quindi cerchi sempre di starli addosso, devi fare in modo che loro si sbrighino anche quando hanno quei cali depressivi che abbiamo un po' tutti con questo lavoro. È veramente buffo che alla fine si sta professionalizzando un po' la nostra generazione, tu sei anche più giovane di me, ma il mercato sta cambiando, e alla fine chi entra nel mercato del fumetto, della cultura in genere, chi entra nel mercato in questo momento deve avere le idee molto più chiare di chiunque altro abbia fatto questo lavoro 20 anni fa, penso. Purtroppo è una richiesta di mercato ormai. Esatto. E tu aver avuto questa lucidità di dire: ok, cominciamo a fare l'inchiostratore, tanto di cappello. Immagino comunque tu abbia avuto la fortuna di avere degli insegnanti che erano dei professionisti. Assolutamente. Che ti hanno indirizzato. Io ho iniziato proprio grazie a uno di questi insegnanti, che si chiama Joseph Viglioglia, che è un disegnatore della Bonelli. Lui era un mio insegnante e aveva trovato che sto aspettando in radio se fosse raggiungibile. Joseph, è il quinto messaggio su Facebook che ti mando, magari senti il podcast, vabbè, pazienza, ma magari poi ci parlo anch'io. Ok. Sì, alla quinta persona che gli dirà: Joseph, Fulvio ti vuole in radio, magari. Lui aveva visto qualcosa in più in me, e quindi mi aveva chiesto di collaborare con lui su questo albo di Brandon, e io ho accettato molto volentieri. E da lì capisci veramente che questo lavoro non è così semplice come sembra. Abbiamo fatto una quantità di tavole micidiale in un mese, si parla di 3-4 tavole al giorno. Per una persona che non aveva mai fatto questo lavoro e che si era approcciato a comunque consegne scolastiche, quindi comunque un pochino meno rigidi rispetto a un lavoro pagato, quindi da un editore, ti rendi conto che cioè o ti deve veramente piacere questo lavoro. Esatto. Questo è stato il crash test, immagino, esatto, ciò che ti ha buttato dentro. Assolutamente. Dopo quello ho davvero pensato che la figura professionale dell'inchiostratore potesse essere un po' il mio inizio, il mio inizio, diciamo, sperando in una carriera. Quindi ho iniziato a non solo lavorare con Joseph, a fare prove per l'America, per altre cose, e dopo qualche mese sono entrato nella redazione di Topolino con le mie prove e ho, con un po' di fortuna, con un po' di tutto quello che è, ho trovato posto lì e ancora oggi sto collaborando con loro. C'è una storia, qual è la più recente delle storie? Dovrebbe essere ancora in edicola, oltretutto. Ok, come si intitola? Vabbè, di cosa parla? No, ricordi cosa hai inchiostrato, Topolino o Paperino? Almeno? No, sì, è una storia particolare. Il titolo me lo ricordo appunto perché non si parla né di Paperino né di Topolino. Ah, cioè, ok, fantastico. È qualcosa di... cioè, praticamente si parla di... vabbè, qui qua, ma in verità di Newton, che è il nipote di Archimede. Ok. Cioè, per quello che faccio... allora, sicuro c'è Newton, perché lui è il personaggio principale. Però di solito quando c'è le storie iniziano per Paperino io me le ricordo molto più velocemente. Okay. Quando si parla di personaggi che io non avevo mai toccato diventa un pochino più, anche perché in verità noi non sempre sappiamo l'uscita delle nostre storie, quindi o lo sappiamo qualche giorno prima perché la redazione ci avverte o lo troviamo direttamente su Topolino. Io ho aperto Topolino mercoledì e ho trovato questa storia. Una bella sorpresa, direi. Sì, va sempre bene. Credo che il potrebbe essere che proprio perché sei un autore giovane e in quel caso era una storia un po', poteva essere una storia un po' diversa, ti abbiano scelto apposta, che ci fosse una scelta anche redazionale. In verità non lo so. Diciamo che io ho collaborato. Potrebbe essere. Sì, potrebbe essere, ma io ho collaborato con questa storia con Donald Soffritti. Okay. Lui è un disegnatore che io trovo incredibile, che lavora da tanti anni per Topolino. E collaboro con lui su questa testata. Mi trovo molto bene. Quindi diciamo che È un po' quello che, più che la redazione, forse è un po' quello che sceglie Donald in questo caso, perché lui, essendo un autore molto, molto forte, ha qualche possibilità di scegliere lui collaboratori, sempre presi dalla redazione naturalmente, però... Certo. Quindi sono molto felice. Beh, ancora di più, ancora meglio essere scelto da uno degli autori anziché dalla redazione. Sì, quindi sono molto felice di questo. E questo è sicuramente interessante perché poi c'è un discorso più autoriale di scelta da parte del disegnatore. Ma poi è tutto team, cioè team fa tantissimo. Se uno si trova bene in team, perché cambiarlo? Esatto. La squadra che vince non si cambia. Esatto. E la squadra che degli Iron Maiden era stata cambiata un po' di volte nel corso degli anni. Però mi serviva qualcosa di più sporco per continuare la playlist di oggi, quindi non gli Iron Maiden di Bruce Dickinson più solari, ma gli Iron Maiden ai tempi di Paul Di'Anno. E quindi, caro Alessandro in regia, ti chiedo di lanciare adesso un pezzo che si chiama Rothschild. E per ripetere un concetto ovvio, questa è Radio Archimede, però mi piaceva dirlo anche dopo il jingle, questi erano gli Iron Maiden che hanno a che fare per qualche motivo con la mia adolescenza, anche se non quadrano, se uno guarda le date non quadra tanto, però capitano queste cose qua. I miei compagni di scuola erano tutti tristi, ascoltavano Grange, io mi divertivo con queste cose qua, ognuno fa come può. Certo. Simone Di Meo, disegnatore e inchiostratore. Adesso che abbiamo specificato esatto. Si può dire. Il lavoro dell'inchiostratore è quello un po' che porta a termine. C'è un... mi ricordo traducendo forse il volume di Stan Lee. Comunque un saggio a fumetti che avevo tradotto che parlava della resa finale. E l'inchiostratore in un certo senso è il renderer, soprattutto se è in bianco, per il fumetto bianco nero. Soprattutto per quello. E il lavoro che trasforma la matita nel fumetto così come sarà pubblicato è quello dell'inchiostratore nel fumetto Bonetti. Sì. Quello che ti dà poi la resa finale di quello che poi appare realmente sulle tavole. Quindi... Esatto. Quante sono importanti i neri? Mi ricordo un esempio di una serie a fumetti in cui due disegnatori professionisti avevano dei giovani autori, ma alla fine mettevano dei gran neri per occupare gli spazi. Ma sì, perché diciamo che il nero a volte serve proprio per toppare, cioè per chiudere quelle scene che magari non sono neanche venute così bene. Ah, ok. È un po' la... come dire, il cerotto sulla ferita. Ok. Beh, c'è chi dice che una buona colorazione riesca a salvare un brutto disegno. Sì, esatto. Quello assolutamente. Infatti io per fortuna quando so che ci sarà il colore dopo la mia fase lavoro un po' più tranquillo. Ok. Quando invece so che, per esempio, in Bonelli il mio lavoro è quello finale, lì diventa un problema, perché se poi c'è una scena che non ti convince tanto speri che convinca gli altri. Quello è problematico, però il discorso della resa comunque penso che ci sia tutto un discorso di occupazione degli spazi, di anche narrazione. E in questo il saggio di Stan Lee, che poi in realtà ho scoperto essere di David Campiti, che è un il nome di Stan Lee c'è sempre, però c'è il nome di Stan Lee, cioè, sul fumetto Marvel parla molto dello storytelling sull'inchiostrazione, perché di per sé anche l'inchiostrazione deve condurre la lettura da una vignetta all'altra. Ma assolutamente, ma in verità si parla proprio di una cosa basilare, quale la divisione dei piani, no? Cioè, se noi pensiamo a una vignetta e ci sono tanti personaggi in questa vignetta, ci saranno dei personaggi più vicini a noi e dei personaggi meno vicini. Se un inchiostratore non è in grado di far capire la distanza dei piani, io non ho leggibilità, non ho chiara che chi c'è davanti, chi c'è, quindi anche poi con una questione di dialoghi, di leggibilità della pagina, diventa molto complicata. E quanto è importante la differenza dello spessore del tratto? Quello è la parte fondamentale, perché quello è proprio il punto cruciale che divide il primo piano dal resto. Cioè, se noi abbiamo questi soggetti molto vicini a noi, li faremo naturalmente più spessi, perché cioè prende questa distanza, ti dà, anche se in verità la vignetta è piatta, cioè esatto. Noi lavoriamo su un foglio, però servono tutte queste indizi di profondità, depth cues sono in inglese, e tutta una serie di cose per truccare l'occhio e fargli credere una serie di situazioni, per fargli vedere profondità dove non c'è. Esatto. Tutto lì. Esatto. E non necessariamente sono meccanismi complessi come la prospettiva, perché magari la prospettiva devi proprio costruire, prendere punto di fuga, esatto. Piano. Ci sono anche dei piccoli trucchetti, quali cioè mettere dei neri al fondo, fare appunto questa divisione, questo spessore, questo diverso spessore di linee. Cioè, sono quei trucchetti che magari uno che legge il fumetto neanche ci pensa che lo sta guardando, esatto. Però mentalmente servono appunto per farti veramente interpretare la scena in maniera corretta. Non c'è un modo migliore per un addetto ai lavori di capire quanto sia sbagliata una scena con i tratti tutti uguali che vedere certe volte tavole di esordienti o di aspiranti. Certo. Questo purtroppo poi ti accorgi e dici perché questa non funziona, ma magari è anche un bel disegno però non funziona. Assolutamente, la cosa bella di avere poi un colorista dopo è proprio che se tu ti sei reso conto che quella scena non funziona, sei in ritardo, glielo dici a lui e lui ti risolve, ti salva la situazione. Ok. Solo perché molte volte il colorista riesce a distinguere i piani usando diverse, cioè dal colore caldo al colore freddo. Se noi abbiamo un soggetto in primo piano e lo mettiamo freddo rispetto a un ambiente caldo, quel soggetto automaticamente si stacca dal resto. Okay. Quindi quella divisione è molto netta e ci salva, molte volte ci salva il lavoro. Tu non hai mai hai fatto anche il colorista? No, fatto? Allora diciamo che io come disegnatore inchiostratore un po' la base del colore, qualcosa di colorato di mio ce l'ho, ma perché il mio divertimento. Beh, non è il mio mestiere, non pretendo di fare il colorista, anche perché ho un'altra preparazione più sul bianco e nero, sui colori ancora faccio un po' di fatica e spero di migliorare, però. Beh, credo che una cosa anche molto importante per esistere sul mercato sia conoscere bene i propri punti di forza rispetto ai propri punti deboli. Se non dimostri sempre il massimo di quello che sai fare, diventa poi un problema lavorare. Esatto, e visto che abbiamo la metafora musicale delle band, non esiste il più grande chitarrista del mondo, esiste un grande chitarrista che esalta le parti forti e nasconde le parti deboli. Certo. E quindi dicono che è un po' il mio lavoro. Esatto. E quindi dopo la metafora del bassista, anche questione di conoscere i propri limiti, è un po' il senso di esistere sul mercato. Questo forse bisognerebbe dirlo un po' di più, perché c'è tanta illusione nei confronti di tutti il mercato della cultura, l'industria dell'intrattenimento, e invece forse se si raccontasse di più che ci sono tutta una serie di problemi di stare alle consegne, di trovare lavoro, eccetera, magari... Se diciamo che fare questo lavoro è un 60% essere il manager di te stesso e poi il 40% è il lavoro in sé. Pende così tanto dalla secondo parte me sì, secondo me se uno riesce a vendere bene il proprio lavoro e poi naturalmente con quell'altro 40% che il lavoro in sé ha una buona qualità, è fatta, cioè è tutto, certo. Lì se uno è molto bravo a lavorare ma non ha idea di come proporsi, di quali sono i modi migliori per trovare lavoro, probabilmente questo lavoro neanche lo farà, quindi poi vabbè, dipende, ci sono quei fenomeni incredibili che si possono trovare, cioè che ti innamori a guardarlo disegnare nella sua stanzetta, quindi Sì. Però diciamo che per chi fa questo lavoro come qualità media, come uno dei tanti autori che ci sono di fumetti, perché comunque siamo in tanti, bisogna imparare veramente a vendere il proprio lavoro nel miglior modo possibile. Certo, e poi in questi tempi poi il mondo è globale, c'è Facebook, ci sono i social network. Con internet. E tu tra l'altro hai una pagina Facebook, sì. Così ci portiamo avanti su, in genere chiedo in fondo le coordinate spazio-temporali, ma in questo caso te le chiedo subito, comunque si chiama Simone Di Meo. Sì, si chiama come il mio profilo di Facebook normale. Non hai, alcuni mettono art, mettono... No, non me la sono sentita. Ok, fantastico. E però hai, mi sembra, 3000 mi piace, comunque... Sì, qualcuno che mi segue ce l'ho. Hai detto niente, infatti. Comunque hai avuto, penso, fin da subito una certa presenza online. Ma diciamo che ho proprio puntato, la prima cosa che ho fatto prima ancora di iniziare questo lavoro, cioè anche solo quando facevo delle prove, quando facevo la scuola di comics, è stato subito puntare sul web. Già da subito le prime prove, i primi approcci l'ho fatti caricando le tavole su Facebook, su DeviantArt, su altri media, e poi contattando gli autori direttamente per chiedere pareri, informazioni e... Questa cosa è una cosa che secondo me va fatta soprattutto con i mezzi che abbiamo oggi, perché finché 20 anni fa uno per avere due pareri doveva farsi 400-500 km per andare a Lucca, esatto. Oggi io con due click ho il parere di un professionista. Esatto, senza dire il nome che è sempre scomodo, un parere che ti ha ammazzato però da cui hai imparato tantissimo. In verità non... No, ok, fantastico. Sarà che ho avuto fortuna, ma no. Ok, vabbè, allora anche qualche dritta. Allora, in positivo, possiamo... Abbiamo citato Joseph come insegnante, esatto. Possiamo citare e anche poi altri. Il mio primo Lucca, che non mi ricordo, è stato qualche anno fa, ero andato da una delle mie autrici preferite, che è Sara Pichelli. Ok. Lei... Attuale disegnatrice di Spider-Man, esatto. Scusate se poco. Sì, sì. Lei mi aveva appunto dato un sacco di dritte utili, però mi aveva comunque detto di continuare a crederci, che probabilmente ce l'avrei fatta. Ok. Oggi la ringrazio. Esatto, esatto. La ringrazio la adesso, settimana prossima a New York. Esatto, sì, sì. Andrai con lei alla New York Comic Con. Sara Pichelli comunque è disegnatrice della testata cardine della Marvel, quella di sì, Spider-Man. Sì. Spider-Man continua a essere... uno dei personaggi più popolari a fumetti. Non, al cinema ha avuto qualche difficoltà perché è di proprietà Sony, quindi c'è tutto un bel casino, sì. un discorso di proprietà, di licenze, questo subentra quando la creatura della mente umana, dell'intelletto diventa un valore commerciale. A quel punto lì ci sono state delle transazioni, forse dovute tra l'altro al fatto che all'inizio il fumetto non era il valore economico che è adesso. Certo. E quindi c'è stato tutto il percorso, ne abbiamo parlato su queste frequenze, di come il fumetto abbia saputo imporsi e la Marvel è diventata anche compagnia di produzione cinematografica. Tra i film Marvel ce n'è uno che tu consideri il tuo preferito, diciamo di quelli degli ultimi 5 anni? In verità a me a me piacciono molto le atmosfere di Batman, l'ultima trilogia. Non ho trovato gli ultimi due titoli. Io ho appena bestemmiato, visto che ti ho chiesto Marvel e tu mi hai parlato di un personaggio di sì. No, sì, infatti ti parlo di supereroi in generale, perché Marvel ha questa nuova politica di far molto ridere lo spettatore, perché così può approcciarsi a diverse età. Non mi dispiace, c'è un film che mi è piaciuto parecchio, è stato Guardiani della Galassia, o anche Ant-Man, che l'avevo sottovalutato moltissimo, invece mi ha divertito parecchio. Sì. Su tutto il resto ho un po' di dubbi. Invece il Batman di Nolan ti è piaciuto? Sì, diciamo che quello era un po' la mia figura di Batman mentale, ma forse questa è poi una deformazione per aver letto molti fumetti, quindi anche per gli albi Marvel poi andati al cinema, cioè io sono affezionato ai personaggi dei fumetti che comunque nell'universo cinematografico hanno preso strada un po' diversa. Certo. E però della trilogia di Nolan qual è il tuo preferito dei tre? Vabbè, sarebbe banale non dire secondo, però anche il primo è molto bello. Ok. E adesso hai delle aspettative per il nuovo Batman? Non ne ho neanche una. Perché in verità lo scorso Superman non mi è piaciuto particolarmente. Voglio vedere, naturalmente andrò al cinema a vedere questo film. Beh, certo. Però ci andiamo con aspettative un po' basse. Tanta aspettativa, poi tra l'altro è stato anticipato anche lì, è una storia produttiva complicata, il Batman vs Superman, e ci arriveremo pian piano, ma si vedrà. Vedremo. C'è un approccio diverso comunque, la Warner / DC. Sì, hanno proprio, ma in verità penso che sia più una questione commerciale, cioè se una va da una parte l'altra va dall'altra. Beh, quasi sempre questa è stata fatta, competitor, ed è giusto, cioè è giusto così. Esatto. Si selezionano poi la gente a cui piace il genere, diciamo. Esatto. Un personaggio dei fumetti o anche dell'animazione che ti piacerebbe in futuro poter disegnare, che magari viene dalle tue passioni, dalle tue letture? Ma allora, diciamo che da quando sono bambino ho avuto sempre un background un po' quello dei cartoni animati che ci trasmettevano su Italia 1, diciamo. Okay. Quindi dalle Tartarughe Ninja ai Power Rangers, che vabbè non è un cartone animato ma è comunque una cosa molto simile. Ok. Vabbè, poi tutti i fumetti giapponesi, ma quelli sono una cosa a parte. Okay. Mentre invece, figura professionale, mi piacerebbe tantissimo, che sono cose impossibili, cioè approcciarmi al mondo di Titeuf, per esempio, di questo fumetto Glénat francese, però sono cose che sono praticamente impossibili perché l'autore è unico. Quindi... Ok, completamente un altro mondo, sì, il fumetto francese. Sì, sì. Non abbiamo avuto ancora occasione di parlarne più di tanto, comunque è tutto un altro mercato, cartonati, grande respiro, grandi sì, immagini, diciamo non necessariamente, in realtà è un grande mercato, quindi noi conosciamo i test di ponte, sono Mebius sul fantastico, esatto. Goscinny e Uderzo per Asterix sull'umoristico, però... C'è tantissimo in quel mercato. Sì, però diciamo che finché uno non si approccia un po' a questo lavoro, in Italia il fumetto francese è un po' ristretto, cioè ci sono poche conoscenze di quello che è poi in Francia, tutto questo mondo particolare. Esatto, perché sono due mercati molto diversi e tra l'altro quello francese è fiorito dagli anni 80 in avanti, perché mi ricordo c'è un albetto sulle edizioni francesi di Martin Mister, gli Albi Bonelli negli anni 80 arrivavano senza grossi problemi in Francia, adesso hanno un po' più di difficoltà adesso, perché sì. Sono piccoli in bianco e nero. Sì, perché diciamo che hanno abituato il pubblico francese a un altro tipo di prodotto. Esatto, quindi... esatto. E invece io non mi abituo ad altri tipi di prodotti, continuo a robaccia di metallo. E, Alessandro, se non è distratto, no, beh, scusami, sei il nostro ninja della regia, quindi sapevo che non eri distratto, che stavi solo facendo finta. E qui andiamo con i Megadeth, perché oggi giù di metallo e quindi Family Tree. E lo so, mi prendo tutte le colpe di tutto questo metallo oggi. Qualcuno tra gli ascoltatori fedeli esulterà, soprattutto perché ci sono stati sbandamenti disco music in questa trasmissione fatti dagli ospiti e quindi capitavano quelle cose lì ogni tanto. È un po' che promettevo, dopo essermi piegato a una bella playlist funky, cose così, io, la prossima volta vi beccate i Megadeth. Bene, ci sono arrivati. Questo era Family Tree. E con siamo qui con Simone Di Meo, giovane professionista, del fumetto, inchiostratore, ne abbiamo parlato. Tu adesso una cosa molto interessante è che oltre alla Disney, che comunque è produzione italiana, quindi hai a che fare con autori italiani per il mercato italiano, tu inchiostri le storie della serie di Doctor Who disegnate da Elena Casagrande per Titan Comics. Sì. Com'è? Tu hai a che fare direttamente con l'editor o con l'autrice? No, io ho a che fare con Elena, che in verità con Elena... ho avuto, prima di fare questo lavoro, gli ho dato una mano su un'altra serie. Ok. È nato così poi la collaborazione, okay. Perché penso che funzioni un po' così per tutti. Uno prova la prima collaborazione, esatto. E poi se si trova bene, esatto. Si replica. Esatto, assolutamente. Ho affrontato due albi di Doctor Who quest'estate, esattamente quest'estate, due albi di fila. Infatti è stato un lavoraccio non indifferente. Sono 22 pagine d'albo, ho fatto 44 tavole. E sì, è stato particolare perché... In verità le storie di Doctor Who sono molto complicate da mettere su carta. Sembra, okay. Cioè, la serie televisiva è molto, molto, cioè, con qualche effetto riesce a cavartela. In teoria nel fumetto dovresti poter fare di più, però appunto perché puoi fare di più, a volte gli scrittori si spingono esatto. Delle sceneggiature assolutamente particolarissime che si fa fatica proprio a interpretare. Esatto. Ma c'è qualcosa che puoi dire di difficoltà concrete senza svelare? Ma in verità la cosa che abbiamo trovato più difficile è stata proprio l'interpretazione di migliaia di personaggi a vignetta. Cioè, uno cosa fa? Nel fumetto cerca poi magari di inquadrare delle persone che parlano. Invece in queste sceneggiature in particolare c'era il dettaglio proprio di avere tutte le persone contemporaneamente disegnate nelle stesse vignette. Quindi abbiamo disegnato migliaia di personaggi. Per esempio, ok. Ma c'è una scena di gruppo o qualche pasticcio tipo Doctor Who temporale con tanti alieni? No, c'erano praticamente in questi due albi loro vanno in giro in gruppo, quindi non c'è solo il Doctor Who con la sua assistente, sono okay. In cinque. Ok. Quindi okay. Sempre queste cinque persone inquadrate. Maledetti sceneggiatori che hanno barato sul fatto di non aver bisogno di verificare la disponibilità degli attori. Perché esatto. Una delle cose che racconta Russell T. Davis, che è lo sceneggiatore che ha rivitalizzato Doctor Who come serie, era in Torchwood... Children of Earth, credo, la terza stagione, doveva esserci Mickey, quello che era il fidanzato di Rose, e alla fine lui ha avuto un altro ingaggio, e quindi l'attore, Noel Clark, e quindi hanno dovuto riscrivere la sceneggiatura right around, dice Davis, ha dovuto riscrivere la storia attorno, fare in modo di assegnare gli elementi a altri personaggi oppure eliminarlo sotto trama. E invece in quel caso lì sono disegnati, quindi butti dentro esatto, tutti. Esatto, ce li butti dentro tutti. Maledetti sceneggiatori. I sceneggiatori sono quelli della serie TV o sono altri? No, sono altri sceneggiatori si incrociano. In verità questa serie a fumetti Dottor Who è divisa in cicli, quindi magari ci sono un ciclo di racconti fatti da uno stesso scrittore che poi il ciclo dopo non ci sarà. E adesso è appena partito il secondo anno del Dottor Who, quindi hanno resettato completamente la numerazione e sono ripartiti dal primo numero, perché stanno facendo un po' come fa la Marvel con All New eccetera. Ok. E quindi riavviano la serie. Ah, ok. Ci saranno sempre gli stessi personaggi, però. Ma ci sono ancora comunque legami con i telefilm? È in continuity con la serie? In verità no. È completamente a parte, nel senso, essendo ci sono testate per ogni dottore. Dal nono, se non sbaglio. Okay. Quindi c'è la testata del nono dottore, decimo, undicesimo e dodicesimo. Vanno avanti tutte. Quindi diciamo che è come se noi ci fossimo fermati, che so, a metà del loro ciclo televisivo. Sì, sì. E quindi ti fa vedere molte avventure che loro riescono a vivere rimanendo sono incastrate all'interno, pieghe nascoste. Un po' come le serie televisive di Star Wars, non so se è presente. Certo, nelle pieghe della narrazione, sono universi narrativi talmente grandi che puoi giocare su quello. Assolutamente. Probabilmente il primo su questo è stato Star Wars, appunto, George Lucas con L'ombra dell'impero, che era stato questo progetto multimediale, fumetti, romanzo, videogioco, che... per cui Lucas aveva sbloccato eccezionalmente il periodo tra L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi, eccezionalmente. Sì, poi adesso... adesso succederà. Tu sei un fan di Star Wars? Assolutamente. E quanto... E questa è quindi la domanda tipica. Hai aspettative? Io però non sono uno di quei fan che dice l'unica cosa che vedo è la trilogia originale. A me piace tutto... Sarò più un fanboy che un fan, in genere. Cioè, a me piace tutto quello che riguarda il mondo di Star Wars. Ok. Da poco questa cosa non pensavo, ma mi sto riguardando tutte le serie... di animazione di Star Wars e le trovo veramente veramente ottime. Ma di per sé Clone Wars è molto bella. Adesso hai già visto Rebels? Ho già visto Rebels e l'ho trovata molto buona anche quella. Pregevole. Quella è Disney, in effetti è già Disney, quindi è rivolta anche a un pubblico un pochino più piccolo. Credo più che altro, più che essere Disney, semplicemente si rivolge, vuole essere all'altezza di un pubblico che potrebbe non conoscere Star Wars, e quindi è entry level, dicono. Sì, esatto, per riproporre un prodotto che sta per uscire come film, esatto. Quindi pre-pubblicità, diciamo. Caro giovanissimo spettatore che neanche sei consapevole di questi meccanismi multimediali, ti stiamo proponendo qualcosa che poi di cui troverai i personaggi altrove. Esatto. E, poi a noi nerd poi buttano lì R2-D2 e C3PO, anziché per me sono ancora C1-P8 e D3PO, che di per sé si mangiano una puntata quando compaiono. Però anche Rebels sì, è pregevole, anch'io aspetto la seconda stagione. Esatto. Però di per sé sono solo personaggi digitali invece che sono solo nuvolette, di per sé niente guerre di religione, quindi andrei a vedere Il risveglio della forza senza preconcetti. Assolutamente, il primo giorno penso. Ok, beh, quello è scontato, infatti ci sarà una selezione, questo potrebbe essere divertente. La prima ondata saranno tutti i conoscitori, ci saranno... E poi potrebbe, come sempre, potrebbe mancare la fascia di mezzo. Quindi magari il primo weekend, il giovedì sera a mezzanotte, probabilmente arriverà l'ondata dei nerd. E poi magari la domenica arriva al pubblico generico. Esatto. Alessandro, tu quando vai a vedere Star Wars Il risveglio della forza ti frega niente perché sei giovine? Non ti piace il genere, santo cielo. Mi lamenterò con la redazione per avermi dato un fonico non nerd. Ma Simone, tu che sei giovane, però hai cominciato dalla serie classica di Star Wars. Guarda, o dai prequel? Il mio primo film al cinema nella mia vita è stato La minaccia fantasma, quindi... Santo cielo, e sei diventato fan lo stesso nonostante sì. Quella roba lì. Sì, guarda, per me piace tutto. Guarda, quando c'è Star Wars blocco la facoltà di capire se è un buon film o no. Ma questo sì, ma per noi Star Wars è equivalente. Io riesco a capire il tifo calcistico, pur non essendo interessato, solo quando me lo paragono a Star Wars. E quindi sì, c'è qualcosa di bello anche nella minaccia fantasma. Anzi, ma no, non era poi così male. Dai, esatto, poi era per bambini, però sì, era Star Wars. Era comunque Star Wars. Esatto. Le spade laser c'erano comunque. Esatto. Poi comunque comincia con due cavalieri Jedi e del giovane Obi-Wan Kenobi. E qui è Qui-Gon Jinn che non ci frega niente, muore, però. No, è Qui-Gon Jinn. Bene, Simone, è stato bello averti ospite, abbiamo ancora 5 minuti esatti, quindi possiamo anche fare argomento scelta come nella tesi. No, scherzi a parte, tu hai sarai anche a Lucca, giusto? Sì, sarò a Lucca con i ragazzi della Manfont, che sono questo giovane gruppo di disegnatori inizialmente solo piemontesi, ma ormai direi anche di altre regioni, perché si è sviluppato molto collettivo bene. Di autoproduzione, esatto. Loro dicono, abbiamo avuto qui Manfredi che è il, esatto, il gran visir, il guru del, del gruppo. Sarò insegnante loro... come te della scuola di... cavoli, non abbiamo detto un, non abbiamo parlato di un tuo lato professionale, quello anche di insegnante della scuola internazionale di comics. Sì, esatto. Li bocci tutti, come dico sempre? Ma no, dai, cerchiamo di... Insegni digital inking, giusto? Insegno digital inking e incastrazione manuale durante il corso di fumetto. Ah, ok. Quindi un po' tutte e due. Ok. Cerchiamo di essere buoni comunque. Ok, infatti, infatti, infatti. E partirà, è già partito il tuo corso? No, l'anno scorso purtroppo non è riuscito a partire Digital Inking. Adesso stiamo aspettando di vedere le prescrizioni. Esatto, e poi vediamo come comportarsi. La scuola di traduzione di comics è un bel polo di formazione in via Borgone. Poi c'è anche via Canelli, mi pare che sia i master. La scuola, il panorama torinese può contare su due belle realtà di formazione legate al fumetto, animazione, digitale, videogame. Poi ognuno. Esatto. Ci sono tutta una serie di sottocorsi. E no, ti ho interrotto, però parlavi di Manfont. Abbiamo avuto qui Manfredi Toraldo e Manfont sarà Lucca, e quindi sarai allo stand con loro in padiglione, sì, Napoleone. Sarò purtroppo, penso che quest'anno sia al Giglio, non te lo so, vabbè, è girato, però... l'angolo è comunque la dieta, esatto. Sì, sarò con loro, che in verità saranno con un gran gruppo di autori, perché c'è questa iniziativa che si chiama Crossover, okay, in cui faranno parte, come lo scorso anno, esatto, certo, grandi autori come sempre Sara Pichelli, Valerio Schiti, Elena Casagrande, Eleonora Carlini, certo, tutti loro, e quindi ci se ne vedranno delle belle, diciamo. Certo, diciamo che se passate da Lucca, diciamo che c'è parecchia ciccia da quelle parti, anche allo stand del Giglio. Poi tenete d'occhio, esatto, credo che si chiamerà Stand Crossover. Stand Crossover, esattamente come l'anno scorso. Ok, sì, ok, quindi tenete d'occhio. Abbiamo parlato della tua pagina Facebook. Sì. Hai un blog, ma vuoi farlo ripartire? Ma in verità sì, avevo un blog, adesso vedrò se riprenderò in mano, però sulla pagina Facebook, okay, mi va più che bene lì, per ora, vediamo, okay, quando avrò più tempo, okay, gestire altro. Fantastico. Io sono Fulvio Gatti, Fulvio The Cat su Twitter, questa era Sono Solo Nuvolette con Simone Di Meo, inchiostratore e disegnatore Disney, Titan Comics, cioè Doctor Who, e altri progetti che arriveranno. Sì, vedremo. Di cui vi consiglio di tenere d'occhio la pagina autore di Simone Di Meo. E andiamo in chiusura. Sono Solo Nuvolette vi dà appuntamento la prossima settimana. Un po' di orgoglio torinese, sempre su suoni piuttosto robusti. Questi sono in linea 77, il pezzo di Vide d'Impera. Dopo c'è ancora un annuncio che mi hanno chiesto, ci sarà anche una playlist di canzoni, se volete rimanere ad ascoltare, magari state disegnando, magari abbiamo qualche disegnatore che ascolta, se volete proseguire l'ascolto, una playlist fatta da Nasca, il batterista degli Statuto. Ciao e appuntamento alla prossima settimana.